e più grazie a, le voglio ricordare tutti, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Stefano Chiodaroli, Andrea Carlini, Gigi Rock, Luca Clobas, Danilo Vizzini, straordinario, grazie. Come mi sono divertito. Lo so, Presidente, ci sei anche tu in un cantuccio, in un angolino, in un angolino, ti ho scrutato e ti ho visto. Allora, sono le 6:34 minuti, ci siamo in diretta anche video, vi prego oggi di non guardarmi sul video Facebook di Radio 24, nella diretta video, anche sul sito radio24.it. Grazie, come se ci fossimo visti. Ci sono in questo momento 14 gradi a Columbus, Ohio, e risaluto Matteo. Così come 12 gradi a Ponte di Legno, saluti a Umberto. Mentre a Somenden ci sono 15 gradi, come ci fa sapere Marco. Invece a Dubai, signori, un altro Marco, Dubai, 37 gradi, fa freschino oggi, ci dice, freschino. Oh, signori, e poi che devi dire? Niente, basta. A Ponte Felcino, Perugia, ci sono 26 gradi. A Rimini 23 gradi, ci fa sapere Alessandro. A Pomezia 26 gradi. A Vada 23 gradi. E a Le. Mentre a... Scusa, Lorenzo, è andato via. Quasso al Monte, 13 gradi e diluvio. Mi spiace Marco, Quasso al Monte. Va bene, voglio salutare Flavia Perina che è con noi, buongiorno Flavia. Buongiorno. Come va a Roma? Non so quanti sono i gradi, però fa caldissimo. Stavamo aspettando questo acquassone che doveva arrivare dalle parti vostre e discendere la penisola, ma non ha disceso. Zero. Si è fermato. Zero. Per la siccità qua a Roma hanno chiuso anche le fontanelle perché... Siccome quando c'è la siccità e fa tanto caldo, sì, le fontanelle si vede che non servono, allora le hanno chiuse. Questa è una cosa che i romani fa molto arrabbiare, perché i romani alle fontanelle bevono tanto. Ma perché hanno chiuso? Perché? Perché dice che hanno poca acqua, allora invece di metterci il rubinetto, perché la caratteristica della fontanella romana. Sì, però per risparmiare, però le fontanelle, se hanno un senso, il loro senso ce l'hanno quando fa molto caldo, quindi tanto vale levarle del tutto, se poi quando servono le chiudi. No, non diamo questa idea che poi magari qualcuno ascolta e va. Ah no, sì, hai ragione. Come non detto, i nasoni si chiamano peraltro, ho detto fontanelle, però il nome tecnico è nasone. Nasone dal grande naso? Perché sono una specie di naso e l'acqua esce da questo naso. I nasoni. Allora, insieme a Flavia Perina voglio salutare Luca Dini, il nostro super mega dir. Ciao Luca, buongiorno. Come va? Tutto a posto? Tutto bene, ma tutto. Tanto a Roma presto avrete le funivie, quindi no, potrete rinfrescarvi. Adesso basta, è il massacro di Virginia Raggi. Noi non stiamo parlando, non abbiamo proprio nominato questo nome, guarda. Scusate, hai detto te, ho fatto una gaffe. Ah, mannaggia. No, perché tra l'altro, apri il Parlamento, va Peter, perché ho letto una notizia. Ragazzi, se uno esce per prendere un credo caffè, di averla letta per la quindicesima volta. Casaleggio è andato a Roma, ha pranzato con la Raggi, c'è sostegno totale, ma ora vogliamo i risultati. Ecco, questa parte, ma ora vogliamo i risultati, credo sia da un anno più o meno, da quando c'è. Sì, ma questa è quella che dicono tutti, non è che è solo Casaleggio. Ora vogliamo i risultati, ora diciamo, vogliamo è una frase molto gettonata. Esatto. Ma signori, sta succedendo invece uno psicodramma nel centro-sinistra. Oggi, io non lo so, mi appello sempre al direttore di giornale, diremo, guardate che la politica chiacchierata così, parlare di coalizioni, spostati di qua, mettiti di qua, non paga, non fa vendere le copie dei giornali. E infatti oggi intervista Franceschini, intervista Bersani, intervista Prodi, intervista di qui, intervista di là, intervista di su, retroscena, la congiura anti-Renzi, i renziani temono la congiura, Flavia, tu che sei di Roma lì, la congiura... Vabbè, queste congiure poi non è che finiscono accoltellate come una volta, quindi alla fine no, meno e male. La testa sia in politica è estremamente semplificata. Quando si perdono le elezioni tu pensi, ma come mai le abbiamo perse? Ci sarà questo motivo, magari che ne so, Banca Etruria, la Consip, forse quest'altro, eccetera. Il politico fa un semplice calcolo. Calcolo al prossimo giro quanti parlamentari e quanti senatori si perdono, sì, sulla base di quel, sì, risultato. Ma il voto delle amministrative, allora, cioè stiamo, sì, parlando, sì, però dei tu comuni. Dici lì ho perso il 12%, significa che ho perso 10 deputati, significa che io o l'amico mio non rientriamo più in Parlamento. Ah, e quindi là non è che è la congiura, è l'istinto di sopravvivenza, sì, diciamo, è che devo sopravvivere e quindi a questo punto mi devo svegliare dal letargo e fare qualcosa. È così, Luca, Renzi contro Prodi, Prodi con Franceschini, Franceschini contro Renzi, Renzi odia Franceschini, questo letto su Repubblica, giù in retroscena, lo odia in questo momento. Mamma mia, sai chi se ne frega poi? No, ma infatti. No, però la cosa pazzesca è che poi uno si dimentica che ci sono state delle primarie, non so... cioè negare che le polemiche degli ultimi mesi, estenuanti, amplificate da tutti i giornali in modo, come dici tu, totalmente inutile, abbiano alla fine rotto le scatole agli elettori, perché poi quello che è successo è che tanta gente non è andata a votare, questa è la verità. Basta, cioè. Anche nelle amministrative, e ricordiamo che le amministrative sono le votazioni che hanno più senso di tutti, perché almeno scegli il tuo sindaco, scegli quello che ti governerà la città per 5 anni, quindi dovrebbe essere le elezioni dove la gente va a votare in massa, rispetto quando si dice a un Parlamento che non è eletto, è nominato, eccetera. Io comunque credo poco alla proiettabilità di questi dati, perché in generale tutti così come tutti gli anni in cui il centrosinistra funzionava solo in funzione anti-Berlusconi, l'ondata anti-renziana secondo me non è un collante sufficiente essere contro Renzi, non è una ragione di... non è un programma, ecco. No, effettivamente. Ma mi sa che l'idea che in politica, e Flavia l'ha vista dal di dentro, valgano più i rancori personali dei programmi, qua si sta vie più ti piace, vie più è bello, però direi che in politica valgono soprattutto i calcoli, i rancori sono tutta panna montata giornalistica. In politica valgono i calcoli. Ma ci sono i rancori, anche i rancori, per carità. Ma scusa, Prodi che dice sarebbe bene candidare Premier Letta, cioè come dire, mettere un dito nell'occhio. Quindi fa un calcolo. Quindi fanno un calcolo. Quando Renzi prendeva il 40% alle europee, zitti e mosca tutti quanti, perché il calcolo diceva a tutti che gli conveniva in qualche modo sostenere Renzi, perché era uno che portava a casa il risultato. È come in una squadra di calcio, è come con un grande calciatore. Quello ti fa segnare, è antipatico, non lo puoi sopportare, ha fatto fuori gli amici tuoi, però segna i gol e te lo devi tenere. E quando poi i leader politici invece il risultato in qualche modo, poi Renzi in questo momento è capo del partito, non è premier, quindi sai, il capo del partito un po' si deve sempre fare carico del risultato della tornata elettorale, il risultato non lo porta più, lì fai il calcolo. Poi i giornali, adesso sinceramente Milan, i giornali li leggono ormai pochissime persone, non credo che abbiano un effetto sull'opinione pubblica, infatti, 200.000 retroscena che pubblicano i quotidiani, quelli servono all'elite, alle classi dirigenti, a chi ancora li legge. Servono i Lucadini, le elite, le classi, eccolo qua. No, guarda, io quelle pagine non le leggo proprio. Salti. Ma cosa infatti, cosa ti incuriosisce dei giornali? Cioè, proprio le pagine. Per esempio, ti incuriosisce la polemica su Fabio Fazio? Sai che c'è questa polemica? No, neanche questa. No, la trovo strumentale e stupida. Però io trovo anche un po' assurdo, cioè, dire senza Fabio Fazio la RAI sarebbe fallita, perché questa ha detto, cioè sarebbe crollata, questa ha detto la Presidente Maggioni in Commissione Vigilanza RAI. Tra l'altro sentiamo Monica Maggioni, Presidente della RAI, sul caso Fazio. Fazio fa parte di una storia RAI che RAI ha costruito spendendo, anche perché la costruzione dei percorsi si fa pagando e spendendo. Pensare di vedere transitare quel marchio, perché comunque anche il titolo era suo, e quindi oggi sarebbe stato un trauma che non so se RAI avrebbe retto in termini di sistema. Cioè, adesso pensare, io questa fase, se fossi Fabio Fazio, me la scolpirei e la porterei a qualsiasi trattativa economica, così. Eccolo qua, senti, la Presidente Rai ha detto che la Rai non regge come sistema se io me ne vado. No. Che facciamo qui? No, la Rai non regge a se stessa, diciamo, purtroppo. Poi Fazio è uno di quelli che la tengono faticosamente in piedi, uno dei tanti, perché non è solo lui che lo mette. No, certo. Secondo me è una formazione un po' esagerata, Così come sono, trovo esagerate le polemiche sulla cancellazione di Giletti, per carità, anche lì secondo me, anch'io penso sia stato un errore, però adesso vedere dappertutto un'epurazione sempre, cioè io non so. No, epurazione sono termini secondo me che per la nostra categoria non si devono usare. Ma soprattutto si sopravvaluta, secondo me, anche l'effetto che un giornalista può avere parlando in TV, cioè alla fine le persone, ma insomma io penso sempre che uno in TV ascolta delle cose e vede confermato quello in cui crede oppure non crede a quello in cui non vuole credere, sì. E basta. In ogni caso, insomma, stipendio, perché molti giornali oggi citano 2 milioni e 2 a Fazio, dita negli occhi agli altri, oggi per esempio Vittorio Feltri, oppure, so, Flavia Perina, tu con il tuo lauto stipendio, anche tu con le tue collaborazioni televisive, immagino che sono stipendi che... Sì, no, favolosi, devo andare con delle carriole sempre, con i dobloni, perché... viene pagata sì, in dobloni. Vengo pagata in contanti, ovviamente, e con dei dobloni che porto ogni sera nei paesi, che devo fare. Cioè, quattro persone che portano carriole, sì, di denaro. Che escono da Saxo Rubra con delle carriole. Poi mi metti in un portiere a casa. Vabbè, ti scandalizzi però per questo stipendio a Fazio, insomma. Ma guarda, insomma, ogni volta che si escono questi stipendi si scandalizza. Mi colpisce di più sicuramente la frase della Maggioni, perché sì, dà un senso anche di allarme, cioè, ma significa, insomma, la Rai si è messa male. Alla fine, insomma, dalla Rai se n'è andato Mike Buongiorno, se ne sono andati dei personaggi, giusto, che veramente sembravano la storia della Rai, e grosso modo non è mai successo niente. Ne sono stati inventati degli altri. Invece, se va via Fazio, sempre tanto. Vuol dire che si sta messi male, no? Che vuol dire che non si è inventato qualcos'altro, che non si sa più inventare qualcos'altro. Tra l'altro, pare che Fazio abbia fatto un po' come si fa in queste trattative, un po' al furbetto, cioè ha detto: se non vado via, guardate che ho già firmato per la 7, eccetera. E quindi hanno detto: no, dobbiamo subito trattenerlo. Ma pare che con la 7, almeno da ambienti di Cairo, editori di la 7 dicano: ma non è vero, avevamo avuto sì dei contatti, eccetera, ma non c'era nessun precontratto. Comunque, che devi fare? Ognuno poi tira acqua al proprio mulino. Andiamo al traffico e poi rientriamo. State con noi. Ciao Milan, fammi sentire il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Genova. Ha deciso, ha votato a destra. Eh sì, avevamo proprio bisogno di grattacieli, yacht, macchine lussuose. Avete votato bene, sì. Han vinto tutti e diamogli una medaglia e mandiamolo a casa. Caro Milan, adesso abbiamo la prova matematica che sei un cretino. Poco fa vi ho sentito dire alla radio che in queste elezioni amministrative non c'entra per niente l'immigrazione. Beh, sei proprio un cretino qua. Una sconfitta alle elezioni amministrative non è mai un voto nazionale. Vabbè, sono un cretino, e che devo fare? Luca, tu già lo sapevi da anni, non è che ti svelo nulla, non è che ti svelo nulla. C'è sempre una soddisfazione a sentirselo dire. Sì. Ah, pensavo, c'è sempre una soddisfazione a trovare uno che mi dà ragione. Che no. Sì, è così. Voi insultatemi, guardate che c'è più gusto nel sentirsi cretino, deficiente, idiota, non capisci nulla. No, ieri ho detto... semplicemente questo, nelle amministrative non è che uno, certo che l'immigrazione può avere come tutti i vari argomenti può aver avuto un senso, no, a spingere qualcuno a votare in un certo modo piuttosto che in un altro, però mi sembra un po', a meno che uno non abiti in una città dove c'è un problema legato all'immigrazione perché ci sono 10.000 migranti, non si sa dove metterli, non so, uno all'Aquila vota in base allo Ius Soli il proprio sindaco? E per me è un cretino lui, scusate, cioè voterà uno, il primo cittadino, in base a quello che pensa di fare per l'Aquila. O no, Flavia, mi sbaglio, però in realtà... No, se... non ti sbaglio. No, se sono un cretino, dato. Dillo pure tu. No, non lo voglio dire. Ma se lo pensi dire. Avanti... Non lo penso nemmeno, ma insomma mi sembra un ragionamento di totale buonsenso. L'immigrazione avrà avuto un ruolo piuttosto marginale, dopodiché i problemi normali delle persone, le cose che chiedono a un sindaco sono le strade, gli asili nido, le case popolari, insomma l'immigrazione con questa roba qua non è che c'entra molto. In tutto è vero. Qualcuno avrà votato pure per l'immigrazione. Ma certo, ma uno legge i giornali, i pochi, l'elite appunto, legge che ci sono arrivati, ragazzi, negli ultimi tre giorni 10.000 persone, 10.000 persone. È una piccola cittadina italiana, ragazzi. Posso dire una cosa, Alessandro? Ho visto ieri che gli americani in media, c'è un sondaggio che pensano che ci siano in America 50 milioni di musulmani, sì. E in realtà sono 3. Quindi, beh, insomma, io penso che i titoli, i dibattiti degli ultimi mesi fanno effetto. Sì, vabbè, ma guarda che hanno fatto un sondaggio simile in Italia, anche la gente d'Italia, io non so i dati, quindi non li voglio dire, ma pensa che ci siano... No, Milan, pensa che ci sono tipo il 20% di immigrati, ci sta il 7,5%. Sì, è vero, ecco, è la temperatura percepita. Sì, la temperatura percepita non è male. Sì, effettivamente è vero, cioè ci sono anche programmi televisivi che un po' spingono su questo allarme sociale. Ma non bisogna neanche sminuire dall'altra parte, basta vivere in una grande città. Io vivo a Milano, ma lo dico come fredda statistica, non sto dando un giudizio. Ormai negli ultimi 2 anni non esiste un angolo, un crocicchio, un esercizio commerciale al di fuori del quale non ci sia una persona che ti chiede l'elemosina, cioè sono aumentati veramente, basta guardare, 2 anni fa non erano così a dismisura. Sono aumentati i poveri? No, io dico molto spesso sono stranieri. Sì. Sono stranieri. La percezione è aumentata esponenzialmente, però. Quello è vero. Io non lo so. Posso dire una cosa sola? Ma come facevamo noi da bambini che non avevamo la temperatura percepita? Non lo so, io non percepivamo. Vi prego, visto che leggo le temperature, nessuno si azzardi a darmi la temperatura percepita, perché io sono furibondo. Questa storia della temperatura percepita, c'è anche la mia amica Stefania Cavallaro di Studio Aperto che mi dice che esistono dei metodi scientifici, mi ha mandato dei link, ma cosa vuol dire? Io la percepisco così e tu cos'ha? Io adesso ho caldo, per esempio, in questo momento, cioè, ho caldo, percepisco che ci sono 30 gradi, ce ne saranno 20 qui con l'aria condizionata 22, ma ho caldo, ho le scalmane, che devo fare? Io percepisco così. Tu, Luca? Sì. Stai al fresco magari, col cashmere. Sì, ma anch'io 30, no, anch'io 30. Ecco, va bene, signori. Allora, c'è... un caso, io non so, vi voglio chiedere un parere anche se forse non l'avete letto, ma lo leggerete oggi sui giornali. Un caso su cui si è pronunciata la Corte Europea e riguarda di Strasburgo, riguarda una bambina, una piccola bambina inglese che è affetta da una gravissima malattia e per la quale i genitori dicono no, bisogna continuare con delle terapie anche alternative, la portiamo negli Stati Uniti, eccetera. Si è arrivati fino alla Corte Europea perché i medici invece dicono abbiamo il dovere di lasciarla morire. E la Corte Europea ha dato ragione a questi medici, dando torto ai genitori che vorrebbero. È un caso clamoroso, è un caso che ovviamente in Italia, se fosse in Italia, questo sì, sarebbe la prima pagina dei giornali, perché apre dibattiti etici non mica male. Non so se Flavia hai letto, hai... Sì, ho visto qualcosa, un dibattito che va avanti da moltissimo tempo. Io non azzardo giudizi, perché dei medici si impegnano così tanto, sostenendo addirittura delle cause giudiziarie molto lunghe, questo caso va avanti da un anno, significa che i medici sono in buona fede convinti che ci sia un accanimento terapeutico, cioè che questa bambina stia soffrendo inutilmente. E dall'altra parte ci sono dei genitori che hanno effettivamente le loro convinzioni. Quindi è molto complicato decidere in queste circostanze, e questo è il portato dell'avanzamento della scienza che ci consente molto spesso di portare avanti fino agli estremi delle terapie, poi qual è il limite tra l'accanimento e la possibilità di cura? Solo il cielo lo sa, insomma, quello che colpisce, sì, quello che colpisce secondo me in questa situazione, al di là del giudizio, anche io mi astengo assolutamente, c'è solo il dramma di questa situazione, è che siano, caro Lucadini, dei giudici, cioè dei giudici, si sia arrivati a un giudizio con persone che asetticamente non conoscono, certo, non sono mica empatiche, mica sono coinvolte in questa vicenda, decidono. Spero che abbiano gli elementi. È chiaro. No, voglio dire, è impossibile dare un giudizio. Mi viene solo in mente che forse sicuramente i medici pensano di esprimere l'interesse della bambina, e in senso opposto ovviamente anche i genitori. Quindi è veramente uno di quei casi dove È uno di quei casi che non saprei che dire. No, ma leggete sui giornali, poi lo leggeremo anche la segna stampa. Però vi voglio lasciare rispolverando una di quelle belle rubriche che abbiamo inventato, cioè la metafora di Bersani, signore. Per me la metafora si è fatta bene a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice, a volte a tutti quanti. Infatti. Come in questo caso, sentiamo un po' Bersani. Mi pare che stia facendo più che della politica, si fa della geografia. Riso e fagioli, in cucina va bene, ma in politica no. Dunque, riso e fagioli, che anche in cucina, non so, Flavia Perina, se è uno dei tuoi... Sì, non sono una grande cuoca, però ti posso dire, la rubrica metafore tu la devi aggiornare, perché adesso ci sono le metafore di Prodi. Questa cosa della tenda, che lui prende la tenda, la mette nello zaino, sposta la tenda, cambia campeggio, eccetera, quindi è necessario aggiornare totalmente questa rubrica. Va bene, lo faremo, però riso e fagioli, avete capito riso e fagioli cos'è la questione? No. Cioè, riso e fagioli. No, perché non ho capito se stanno bene insieme o se non stanno bene insieme. Eh no, in politica no, però. Ma chi sono? Chi a Roma riso? Non si mangiano, poi, quindi non saprei proprio dire. Ma chi è il riso poi? Chi sono i fagioli? No? Io ero più basico. Chi sono? Chi è il riso e i fagioli? Vabbè, non lo so. Va bene, io vi devo salutare. Vi ricordo che Vanity Fair in edicola c'è il grande Vasco Rossi. Sabato il concerto che mezza Italia vedrà in TV oppure lì. Io vi ringrazio, Luca Dini e Flavia Perina, e vi do un abbraccio, alla prossima. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. Allora, cari ascoltatori, c'è chi vuole lanciare un sondaggio per capire se io sia un cretino oppure no. Non lo so dove si voti in questa piattaforma, ma potremmo fare nell'epoca dei sondaggi, nell'Italia dei sondaggi, nel paese dei sondaggi, facciamo anche questo sondaggio. Va bene, grazie. Alle 7:19 minuti siamo qui dopo una nottataccia. Va bene, tre ore e mezza Lorenzo Nespoli, tre ore di sonno Peter Bescapè. Siamo 3:69, 10 ore in 3. E alle. Siamo pronti a leggere i giornali nello spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo. Brutto cretino d'un Milan. Ecco, questo è il classico caso in cui un sondaggio dice che il 100% dei partecipanti reputano che io sia un cretino. Allora, siamo a mercoledì 28 giugno, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, Google, multa record dell'Unione Europea per lo shopping online, quello che ieri ci anticipava Mauro Meazza. Mentre la politica tiene banco, guarda caso, su tutti gli altri giornali, Prodi e i leader contro Renzi, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, rivolta nel PD, Prodi contro Renzi, Franceschini, qualcosa si è rotto. Il Fatto Quotidiano invece mette addirittura la foto, un disegno di Mannelli con Renzi nella bara, proprio così, nella bara. Happy end del PD, e vissero tutti felici e con Renzi cadavere. Comunque l'apertura del Fatto Quotidiano in realtà non è su questo, è tutta la verità sul non caso Fatto, Sciarelli e Woodcock. Questa è la vicenda giudiziaria di cui parleremo. Per La Stampa invece, allarme sbarchi, il governo pensa a mini tendopoli. Il giorno qualcosa, scusate, libero, qualcosa cresce la miseria. Mentre il giorno mette in prima pagina Fabio Fazio, il più pagato d'Europa. Il caso Fazio, contratto Rai da 11,2 milioni di euro in 4 anni. Per il Messaggero torna la questione Renzi, assedio a Renzi che lacera il PD, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per La Verità, Consip, chi tocca Renzi muore. Il PM Woodcock, che aveva aperto l'inchiesta a Napoli, indagato a Roma per rivelazione di segreto d'ufficio insieme alla giornalista Federica Sciarelli. Così il giornale, chi l'ha visto? La Sciarelli cercava papà Renzi. Il titolo invece del Manifesto, c'è Renzi con la foto Ius Solo. È un Renzi in difficoltà, certamente. Trafficanti assassini è invece il titolo di Avvenire. Interessante questo punto di partenza, perché voglio partire proprio dalla lettura su quello che sta succedendo in tema immigrazione. Trafficanti assassini, perché non dimentichiamolo, Avvenire giustamente mette in primo piano quello che è successo in Niger, nel deserto, dove 52 cadaveri sono stati trovati, abbandonati senza acqua nel deserto. Ebbene, non dimentichiamolo, perché noi abbiamo solo la percezione e la fisica contezza di quello che succede vedendo i migranti che sbarcano in Italia, e sono tanti, e sono tantissimi. Negli ultimi giorni sono stati 11.000, negli ultimi 3 giorni. Però succedono anche questi drammi che non si vedono, che sono minori nei numeri, ma come quello che Avvenire mette in prima pagina, in Niger 52 abbandonati senza acqua nel deserto, trovati morti. Ma dicevamo, la situazione in Italia è a dir poco al collasso per quel che riguarda la ricezione dei migranti. Lo sa bene il ministro Minniti, che infatti ha interrotto improvvisamente un viaggio all'estero che lo stava facendo per altri motivi, come racconta Grazia Longo in prima pagina della Stampa. C'è anche il titolo L'incubo dell'invasione d'estate, un dietrofront aereo più eloquente dei numeri della difficoltà a reperire le strutture d'accoglienza. Negli ultimi 4 giorni salvate nel Mediterraneo 10.500 persone. Dai sindaci non sempre c'è disponibilità a ospitarle sul proprio territorio. La conferma che l'emergenza migranti sia ormai esplosiva è il rientro immediato in Italia del ministro dell'Interno. Anzi, più che di un rimpatrio, si è trattato di un'inversione di rotta dell'aereo che stava trasportando Minniti a Washington per alcuni incontri istituzionali. Ma durante il volo verso la capitale, il titolare del Viminale ha esaminato i dati allarmanti e la sua decisione definitiva è maturata durante lo scalo tecnico in Islanda. Aggiornato al telefono sulle ultime cifre dell'esodo dalla Libia, ieri pomeriggio ha preferito abbandonare il viaggio a Washington e tornare in Italia. La frase viene attribuita a Minniti: la situazione può precipitare, le ipotesi sul campo, allestire mini tendopoli, utilizzare le caserme. Certo, i numeri sono sempre più preoccupanti. Secondo il Messaggero, Sara Menafra, pagina 15, il Messaggero dedica una pagina a questo tema, si valuta anche un'altra ipotesi, quella della chiusura temporanea di qualche giorno dei porti alle navi delle ONG, quelle che salvano in mare i migranti. Il sistema accoglienza ora sì è davvero al collasso. Il clima è talmente teso da rendere possibili tutte le opzioni sul tavolo, perfino le più drastiche come quella di chiudere i porti italiani, almeno per alcuni giorni, alle navi delle ONG in arrivo. Ha parlato anche di questo ieri sera Minniti col capo del governo Gentiloni. Il titolare del Ministero dell'Interno ha rappresentato una situazione grave, con numeri quasi al collasso che potrebbero aggravarsi su alcune città generalmente disponibili a partecipare al sistema di accoglienza. Il problema di dirottare alcune navi delle ONG in altri porti europei è stato posto più volte anche in incontri istituzionali con altri paesi europei, ma nonostante gli appelli, nessun paese ha mai aperto l'accoglienza dei mercantili che raccolgono migranti. No, per dire, questa è l'accoglienza dell'Europa, questo per dire la collaborazione degli altri paesi. Tutti invece in Italia, anche le ONG li portano qui. Anche Renzi, secondo Vladimiro Polchi su Repubblica, dice i numeri non sono più sostenibili. 10.000 in 4 giorni, una piccola cittadina italiana. Io voglio rimanere all'estero. C'è questa notizia che trovate sviluppata su tutti i giornali. Qualche giorno fa La Verità l'aveva messa come titolo di apertura di prima pagina. È una notizia drammatica che riguarda una bambina, una povera bambina, Charlie Gard, nato il 4 agosto. Gli è stata diagnosticata una sindrome da deperimento mitocondriale, cioè un progressivo indebolimento dei muscoli, una diagnosi che non lascia speranza. E a detta dei medici, questo bimbo inglese, non avendo speranze di sopravvivere, deve essere accompagnato alla morte per evitargli inutili e ulteriori sofferenze. Da qui, da qualche mese, è nato un contenzioso con i genitori, perché i genitori non vogliono, i genitori si oppongono, i genitori vorrebbero portarlo negli Stati Uniti per tentare delle cure sperimentali. Grazie a donazioni da tutto il mondo sono riusciti anche a raccogliere i soldi per questo viaggio negli Stati Uniti, per pagare questa terapia sperimentale alla quale vorrebbero sottoporre il figlio. 100.000 persone hanno firmato una petizione per chiedere alla premier inglese Theresa May di intervenire e salvare questo bambino, perché i medici invece sono andati fino alla Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo, che ha deciso di dar loro ragione, e quindi ora l'ospedale potrà, come si dice in gergo anche se è brutale, staccare la spina e lasciare morire questo bambino, nonostante i genitori siano contrari. La Corte Europea sta con Londra, staccate la spina al piccolo Charlie. Questo è il titolo di pagina 21 del Corriere della Sera, ma guardate qui Avvenire, La Verità dedica una pagina, Libero dedica una pagina. Leggo dal Corriere: il piccolo Charlie, per il piccolo Charlie non c'è più nulla da fare. La Corte Europea per i Diritti Umani di Strasburgo ha respinto l'ultimo ricorso dei genitori del bambino di 10 mesi nato con una rara malattia genetica. Ora i medici del Great Ormond Street Hospital, più importante ospedale pediatrico di Londra, sono autorizzati a staccare la spina contro la volontà della madre e del padre. Il caso di Charlie ha diviso l'Inghilterra. Il piccolo era nato apparentemente in buona salute il 4 agosto. Poi questa diagnosi, ci sono solo 16 casi al mondo. Ieri la Corte Europea ha dato ragione ai medici. Secondo i giudici, la cui decisione è definitiva, proseguire il trattamento continuerebbe a causare a Charlie un danno significativo. A loro parere il bambino è esposto a continuo dolore e sofferenze. La terapia sperimentale cui i genitori vorrebbero affidarsi negli Stati Uniti non ha prospettive di successo e non offrirebbe alcun beneficio. Dunque la Corte considera appropriato sospendere la misura provvisoria con cui chiedeva ai medici di tenere in vita Charlie. È una vicenda che continua a dividere e divide molto in Inghilterra. Ora ha varcato i confini della Gran Bretagna, in realtà se ne parla un po' in tutta Europa. Non lo so, io sospendo un po' il giudizio, ma vi invito, se volete, a leggere i tanti articoli che trovate su questa storia sui vari giornali. Siamo però all'articolo che mi fa pinzore della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. In questo caso dico Mani sul Volante, ripeto, Mani sul Volante, non altrove, Mani sul Volante. Se siete a colazione potete appoggiare tutti, mani sulla brioche, mani sulla tazzina, va bene, perché si parla proprio di mani in questo caso, di mani, di palpeggiamenti. Palpeggiò la paziente, non è violenza sessuale. Leggo l'articolo di Mara Chiarelli su Repubblica, pagina 19, la storia di un medico, di uno psichiatra 75enne di Bari, che è stato assolto. Nonostante, allora, il fatto non costituisce reato, quindi assolto proprio, no? Nonostante non abbia negato che a una paziente di 28 anni, lo psichiatra di 75, la paziente di 28, ci sia stati, come dire, delle terapie, ecco, delle terapie, così le definisce, toccata al seno, all'interno coscia, all'inguine, al pube. È davvero difficile, dice il PM, credere che una paziente stesa su una chaise longue riesca a rilassarsi e confidarsi durante una seduta di psicoterapia se il medico che l'ascolta continua incessantemente a toccarle il seno e le parti intime. In un'occasione avrebbe anche detto: quanto ti sono cresciute le tette? E il PM fa notare: la rilevanza medica della domanda è oscura. L'idea che nell'ambito della psichiatria italiana le tecniche di rilassamento possano arrivare a comprendere il palpeggiamento di seno, interno coscia, inguine e pube è da considerarsi un'invenzione del Tribunale di Bari. Nonostante ciò, la soluzione: lo psichiatra non ha mai negato i contatti intimi, forse, non lo so, non era al processo anche la domanda, ma quanto si sono cresciute le tette, effettivamente dal punto di vista medico abbastanza oscura, ma erano, ed è stato spiegato così, tecniche di rilassamento. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, la spunta blu dell'informazione. E allora alle 7:35 minuti, chi mi scruta su Facebook, nella nostra pagina pubblica di Radio 24 oppure su radio24.it nel video, mi può vedere magari stiracchiare e sbadigliare oggi, vabbè, ma non vi preoccupate, è tutto sotto controllo. Allora, come ci aveva preannunciato ieri Mauro Meazza, è arrivata la multa dell'Unione Europea per Google ed è una multa salata. 2 miliardi 420 milioni di euro. Ragazzi, 2,42 miliardi. Beda Romano racconta a pagina 3 del Sole 24 Ore come anticipato la Commissione Europea ha annunciato ieri una multa miliardaria ai danni di Alphabet, la casa madre di Google, 2,42 miliardi di euro. La società americana è ritenuta responsabile di avere abusato della propria posizione dominante favorendo su internet i propri servizi di Google Shopping. Nel concreto, la società offre ai propri utenti un servizio che mette a confronto i prezzi dei prodotti oggetto di una ricerca su internet. Durante una ricerca del portale Google, il servizio Google Shopping è al primo posto, relegando più in basso nella pagina gli altri servizi di confronto tra i prezzi sul mercato. E la Commissione ha fatto notare che tendenzialmente, nel 95% dei casi, un utente di internet sceglie tra le opzioni della prima pagina di una ricerca. I risultati in cima alla pagina vengono cliccati il 35% delle volte. Dunque, secondo la Commissione, Google ha abusato di posizione dominante. Il servizio di confronto dei prezzi esiste attualmente in 13 paesi dello spazio economico europeo, tra cui dal 2011 l'Italia. Se non rispettasse la decisione entro 90 giorni, Google sarebbe chiamata a pagare un'ammenda pari a 12 milioni di dollari al giorno. Google ovviamente protesta dicendosi rispettosamente in disaccordo, mentre l'associazione imprenditoriale Fair Search reagisce positivamente. Si tratta di un precedente importante che la Commissione potrà utilizzare immediatamente per imporre la libera concorrenza. Questo nei confronti di Google. Il Corriere va a intervistare Mario Monti perché lui, da ex commissario europeo alla concorrenza fino al 2004, sanzionò un colosso come Microsoft. Dunque il Corriere con Federico Fubini va a sentire Mario Monti. Senza l'Unione Europea gli stati sarebbero preda delle multinazionali. Le autorità europee sono rigide, ma non ci sarà scontro con gli Stati Uniti, questo prevede Mario Monti. Beh, certo, è una multa davvero esorbitante, una multa in cifra fa veramente paura, 2 miliardi 420 milioni. Oh, non ci sarà alcuno scontro con gli Stati Uniti, assicura Mario Monti. Che ci sia uno scontro invece, venendo alle questioni più prosaiche italiane e di politica all'interno del PD, è beh, quasi scontato, è la puntata numero 8382 dello psicodramma, telenovela, psicodramma PD. Ora la situazione è questa: Renzi, che vede dall'altra parte soprattutto l'asse Prodi-Franceschini contro di lui, tanto che in un retroscena di Repubblica si racconta Renzi in questo momento ce l'ha a morte con Franceschini, a morte, perché Franceschini in un'intervista, tra l'altro a pagina 3 di Repubblica, racconta un po' quello che Prodi ha detto a Renzi, cioè sei troppo divisivo. Prodi voleva fare il Vinaville, risultato Renzi ha detto sposta la tenda, Prodi ha detto non si preoccupi, l'ho già messa nello zaino, come dire non faccio parte del Partito Democratico. La politica italiana è tutta qui, è questa roba qui, io continuo a dirlo nel deserto, è questa roba qui, paginate di interviste, invece di chiamarsi e telefonarsi, rilasciano interviste sui giornali, coi direttori compiacenti che lasciano paginate ai leader politici per tirarsi rasoiate, coltellate, messaggi. Sentite qui, Franceschini, intervistato da Carmelo Lo Papa, pagina 3 di Repubblica. Noi siamo nati per unire, non per dividere. Si è rotto qualcosa col paese, così ci consegniamo a Grillo. E via, tutta un'analisi di un'intervista di una pagina. Il fatto, Renzi, botte da Orbi, ora contro l'asse Prodi-Franceschini. Renzi che dice ai suoi, siate zen. Non pensava alla mia gatta, Zen, si chiama così, Zen, no. Siate zen, occidentali scarma, vi giuro, così sui giornali. Prodi, Prodi, Renzi ai suoi, anch'io vado nel pallone. Renzi ai suoi, occidentali scarma. Tanto dice dove volete che vadano, senza di me. Da Prodi a Sala le critiche a Renzi e Franceschini, il PD non divida. Ma lui parla di congiura. Congiura per abbatterlo e dice calmi, zen, non reagite. La Stampa mette in un retroscena pagina 5: avevo chiesto a Prodi di non parlare più di Ulivo e di Pisapia, questo Renzi, e dall'altra parte Prodi non si preoccupi, mi ritiro in pace e metto lo zaino, metto la tenda già nello zaino. Ci voleva chi? Bersani. Poi Bersani diciamo svelenire il clima, intervistato una pagina anche qui sul Corriere della Sera da Monica Guerzoni, dice è canagliesco incolparci, ora il PD vada dove lo porta il cuore, il paese si è lasciato Renzi alle spalle, dice Bersani, hanno perso lucidità anche a dire poteva andare meglio. In Emilia Romagna nel 2014 c'è stato il record negativo di votanti, hanno perso le amministrative e il referendum, ora un'altra botta e come ogni volta dicono avanti così, anzi di più, che il PD sta sulle scatole a un numero crescente di italiani, ha tranciato i rapporti con una sensibilità di sinistra e di civismo, è evidente, dice Bersani. Renzi continua a negare i problemi con un solipsismo sempre più arrogante. Meno tasse per tutti, flessibilità, bonus, i rapporti sociali sono irrilevanti, il nemico i 5 Stelle, l'amico lo cerchiamo nei pascoli a destra. Io invece, pensando alle batoste nelle roccaforti rosse, non ci dormo. E poi Bersani fa questa accusa. La batosta non è colpa della vostra scissione? Ci vuole coraggio a prendersela con quei cirenei come me e Pisapia che sono andati in posti dove i dirigenti del PD si erano fatti di nebbia, tipo Genova, La Spezia. Segnalo tratti di ingenerosità che a molti appaiono perfino canaglieschi. Così Bersani che dà della canaglia a chi li incolpa. Questa è la politica italiana. Renzi, sempre nel retroscena di Repubblica, dice Pisapia, basta, non parlatemi di Pisapia, dovremmo tirare e fare la campagna elettorale a uno che forse a occhio non entra neanche in Parlamento con il 3%. Ecco, un bel clima di serenità, di amore, di pacatezza, un clima alla Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, come stai? Buongiorno, buongiorno. Bene? Alessandro. Bene, tutto bene. Mi colpisce, ma chi è quel signore che non ci dorme neanche lui? È stato anche lui ieri sera alla Wonder Night, allo spettacolo. Io non lo so, ho un po' di sonno arretrato in questo momento. Va bene, allora guarda, ti risollevo subito perché ti voglio segnalarlo anche a tutti i nostri ascoltatori, ma in particolar modo con grande affetto a coloro che si occupano di fisco, che ci sono gli elenchi per lo split payment. Io so che tu mi stai un po' trascurando lo split payment, oggi poi non sei neanche tanto in forma, insomma hai dormito poco, però sappi che sabato parte l'allargamento dello split payment. Che roba è? Si mangia? No, è una cosa che riguarda l'IVA. Ah, vabbè. Sì, riguarda l'IVA, riguarda le fatture. No, non si mangia. E invece, diciamo, potrebbe disturbare, cambiare molte abitudini, specialmente dei nostri amici che si occupano di fisco, ma anche poi di tutte le imprese, di coloro che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione, non so, 29.000 soggetti sono interessati da questo split payment come destinatari. Tutti i particolari naturalmente su norme e tributi religiosamente come sempre, ti segnalo che oggi con il Sole 24 Ore, anche se tu sei un po' assonnato, ti diamo il focus, 16 pagine sulle misure fiscali della manovrina, che sai che è diventata una manovrona, e questa manovrina contiene tante cose, non so, la tassa sugli affitti brevi, per dire, la tassa cosiddetta Airbnb, sta dentro la manovrina, ma lo split payment sta dentro la manovrina e tante altre sorprese bellissime che potrai leggere e approfondire sul focus di norme e tributi. Oh, ti segnalo, sai che ieri ti parlavo di questo andamento dell'oro che era crollato? Forse per un errore. Oh, sì, per uno zero di troppo. Ma Sissi Bellomo puntualmente ci informa, ci aggiorna su una seconda puntata. Ieri c'è stato un maxi acquisto per rimediare alla Svizzera il giorno prima. Chi lo sa? Io, guarda, purtroppo non ho la necessaria forza di danaro. Se mi presti 2 eurini, magari compriamo qualcosa anche noi. Facciamo risalire il corso dell'oro, ne parliamo magari con la collega Bellomo che oggi appunto ti segnala questa cosa. Già hai detto, e me ne compiaccio, della relazione, di quanto relaziona Beda Romano sulla maxi multa a Google. Ti invito a leggere tutta la pagina 3, anche l'editoriale di Luca De Biase, proprio su questo dissidio USA Unione Europea in materia di digitale. Ma poi ti voglio anche segnalare, a proposito, tu sei su Facebook adesso, no? Sei inquadrato, sì, come spettinato come al solito, immagino. Sì, oggi più del solito. Assonnato più del solito. Sappi che potrebbero guardarti in 2 miliardi di persone. Solo? No, siamo arrivati a 2 miliardi, è una delle cose segnalate. E a proposito di digitale, dell'internet, di tutte quelle belle cose lì, ti segnalo che c'è anche l'attacco hacker, non ci poteva mancare, anche per l'Italia. Solito sistema, arriva il softwareino cattivo e chiede il riscatto in Bitcoin, che sono questa criptovaluta, così le chiamano gli esperti. Insomma, un sistema di ricatto che stava però colpendo anche aziende in Italia. Infine, visto che, ma infine si fa per dire, medita sulla Corte dei Conti che dice che la spending review, sai, la stretta sulla spesa pubblica improduttiva. Ecco, però ieri c'è stata la relazione sui conti 2016 dello Stato e la Corte ha detto, si è fatto pochino, si poteva fare di più e tra l'altro crescono i debiti fuori bilancio. Ti spiega tutto Roberto Turno. Ultima cosa, i tuoi 2 euro, io so che tu li hai messi nei fondi comuni perché è stato toccato un record di conferimenti. Noi italiani amiamo risparmiamo tantissimo, siamo arrivati a un patrimonio gestito di 2.000 miliardi, altro che 2 euro, caro Milan. Tutto ciò premesso, fai magari un pisolino adesso, intanto che ascoltiamo tutti quanti il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Alessandro Milan, il belli capelli dell'informazione. Insomma, alle 7:50 minuti siamo qui, sempre in diretta con le notizie dai giornali. Dobbiamo parlare di che cosa? Della vicenda giudiziaria Consip che coinvolge il PM Woodcock e anche la sua amica, compagna, non si è mai capito fino in fondo, sicuramente un'amicizia profonda, Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto. Sono entrambi indagati. L'accusa è quella di avere violato il segreto su Consip, in pratica di avere passato, questa è l'accusa, da parte di Woodcock attraverso Federica Sciarelli, con ultimo approdo Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano, di avere passato i documenti che non dovevano essere pubblicati. rivelazione di segreto d'ufficio. Questo è il reato ipotizzato dalla Procura di Roma nei confronti di Harry John Woodcock, PM di Napoli, e di Federica Sciarelli. Tra l'altro Marco Lillo scrive sul Fatto Quotidiano a pagina 2 dicendo: la Procura di Roma sbaglia, ha preso un grosso brutto granchio. Federica Sciarelli, collega che stimo e della quale mi onoro di essere amico, è stata indagata per rivelazione di segreto in concorso col magistrato Woodcock. Federica ha subito anche il sequestro del telefonino, ma io posso testimoniare, per quel che vale la mia parola, la mia credibilità, che in questo caso la Procura di Roma ha sbagliato. La verità è questa: Federica Sciarelli non ha messo in contatto il magistrato Woodcock con me per scrivere di Consip. La tesi dell'accusa è probabilmente fondata da quel che si legge su tabulati telefonici del mio cellulare e di quelli dei due indagati. Ebbene, non c'è grigio in questo caso, ma solo bianco o nero. Woodcock e Sciarelli sono innocenti e la procura si è sbagliata. E qui Marco Lillo dà la sua versione dei fatti dicendo: io quando c'erano notizie sulla Consip che stavo per pubblicare ho chiamato Federica Sciarelli solo per sapere dove si trovasse Woodcock. Non è un mistero che i due siano legati sentimentalmente. Il mio obiettivo era sapere se Woodcock fosse a Roma, perché sarebbe stato un riscontro alla notizia da me già ottenuta, ma che volevo ulteriormente verificare, cioè che fosse in corso una perquisizione alla Consip. Non dissi a Federica perché volevo sapere dove fosse Woodcock e lei, solo per cortesia, mi rispose: Marco, se lo sento ti richiamo. Poi mi richiamò e mi disse una frase tipo: Marco, alla fine l'ho sentito e mi ha detto che non sta a Roma, e aveva un tono sbrigativo e attaccato. E il giorno dopo, addirittura dopo aver letto il mio articolo, mi ha richiamato Federica Sciarelli dicendo: vedi come fa, quello che mi dice un sacco di cazzate quando deve coprire il segreto su una sua indagine. Perché Federica Sciarelli si è difesa così dicendo: non è possibile che io abbia passato notizia a Marco Lillo perché Woodcock non mi svela nulla delle sue inchieste, tantomeno ciò che è coperto dal segreto. Va bene, la vicenda comunque è su tutti i giornali, come su tutti i giornali la vicenda di Fabio Fazio, il suo stipendio. Ne parleremo anche alle 8:15 con il responsabile, con uno dei membri del CDA della Rai, Mazzucca. Quanto guadagna Fazio? 11.200.000 in 4 anni, 2.200.000 all'anno. Quello che ha colpito soprattutto è la frase di Federica Maggioni, presidente della RAI, che in commissione di vigilanza RAI ha detto: se non firmavamo questo contratto e se Fazio fosse andato via, ci sarebbe stato un rischio di tenuta del sistema RAI. Che io dico, porca miseria, se fossi Fabio Fazio questa è un'assicurazione sulla vita, cioè poteva farsi ricoprire anche altro che di 2.200.000 all'anno. Cioè sentire la presidente della tua azienda che dice: senza Fabio Fazio è a rischio la tenuta del sistema RAI, io ne chiedevo 10 di milioni. Perché se è a rischio la tenuta del sistema, a questo punto uno può chiedere quello che vuole. E infatti La Verità mette come titolo proprio questo: Maggioni surreale, senza Fazio la RAI crolla. E questo ha detto, l'abbiamo fatto sentire, lo faremo sentire anche dopo le 8, la tenuta del sistema RAI è a rischio senza Fazio. Va bene, ne parliamo tra poco. Dai, quante altre notizie ci sono sui giornali che non sono riuscito a leggere? Siamo solo allora alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. È un'intera, ma è mezza pagina, non un'intera pagina, mezza pagina di Antonella Luppoli sul successo di Temptation Island, l'ultimo programma di Canale 5 che parla delle corna degli altri. Quanto piacciono le corna degli altri? Ma chi se ne frega!